prima questo anno il vanno Santiago 9:10, poi 9:20 prima, anche di più, capito? Non lo so, magari sto usando il vasso da parecchio, però mi sta arrivando molto più basso. Vedete che sono anche 9, tutti ripeto, e quindi qui è molto momentaneamente assente, perché si attacco quello, disturbo un balazzo, l'altra volta mi hanno rotto le balle, perché parlano dalle, l'unica notte che ho parlato dalle 8 fino alle 11 di notte, ho detto. E ho detto, a tutto quello che ho detto, a parecchio mi hanno riferito, figurati. Sembra che ci abbia ascoltoni. Positiva Caparrode, no, Gianni qua, 9:25, radio 5 perfetta. Già, io sto andando con 10 watt, sempre poi mi ascolti, sì? Prova. 10 watt di portante bianca, cioè, dai. Non so come vi ascolti, boh, se è cupo, se va bene, non lo so. Va bene, la radio e tutto quanto, anche il segnale, se 9:25 lo stesso. Cappagatta, già va bene, già va bene, non c'è problema, se fa male già te lo dico. Ma e noi, vedi, ogni tanto si fa una domanda, come sta andando, ecco, però nel frattempo si fa un discorso, non è che sia la prerogativa quella di dire come esci, come che antenna c'hai, la cosa tipica, noi la mettiamo in mezzo al resto, invece di parlare solo esclusivamente di quella. Infatti è quello che sto dicendo io, boh. Loro fanno questa cura, queste cose, amplificatore, ho fatto due valvole, me ne servono quattro, il rotore, qua, là, boh, allora, loro mondo, va bene così. Ok, riprendi a lei, un attimino faccio un secondino di bianco che attacco il DVD a mia figlia, riprendi a lei. Ehi, positivo, c'è anche un bel giretto in coso, ho visto stamattina, c'erano pochi di gente sui in PMR, pieno era. C'era uno che si stava regolando l'antenna con le stazionarie, figurati. Non mi niente su Manzano, anche il ragazzo c'era, strano, eh? Sì, sta riempendo la PMR, sta riempendo, di pelo. Io ho il portatino piccolo, non è che va di più di tanto, però che più regolazione antenna già c'hanno già apparecchiature grosse. Sì, non lo so cosa stava facendo, uno era giù, per la portante, l'altro era sotto, quanto sono stazionari adesso? 1 e 3, e adesso 1 e 5, adesso 1 e 1, ma quasi più di 2 ore c'era. C'era un giro di pelo, cosa lì era? Avanti, avanti! Ora, ora! Beh, Daniele! Beh, pompogno, buonasera a tutti, eh! Ben svegliato! Arrivo forte! Conosco subito appena ti svegliato, alla voce! Oh, guarda matrimonio, le 8, crocro! Domani tocca a me, mio addormentarmi alle 4 o 5 del mattino e svegliarmi alle 7 e mezza, alle 8. Ho fatto una settimana di cosa, guarda. Adesso mi metto in bianco a mangiare per un mese. Tra panettone, carne, birra, vino, spumante, cose del genere. Con adesso no, dovevo ce la vado alle stelle. Oh, io ya. Gabberone. Ma l'hai preso, eh? Oh, gabberone non ne mangio io. Marco l'astice, Marco se ve lo presenti davanti, se sei gratis. Nulla. Non mi piace il gabberone, non mi vado. Preferisco magari pasta al forno, agnello, altre cose. Di quello proprio no. Pesce, non mi piace. Mi vanno a mettermi le sardine, quelle cose lì, i pisari, perché qualche altra cosa, ma non più di tanto. Avanti, Gianni, fai girare che è diventato, adesso mi viene in mente il nome, fa culo a me, la testa sta cominciando già a andare male i neuroni. Massimiliano è diventato, e tu bevi di meno, lo stesso, a Natale. 24-25 non me la più giù, assaggia questo, assaggia l'altro e mi stavo quasi addormentando. Adesso ti fa quell'effetto? A me no, a me non mi fa dormire per niente. Questo qui era vino molto, era vino di Usini, poi c'era, oltre a questo di vino di Usini, c'era un rosato di Dorgali, ma tutta roba di proprietà, tutta roba tenuta in cantina per anni. Poi c'è sempre questo vino vecchio, il cugino di mia moglie, lo stappa quando andiamo noi, sempre a Capodanno, a Natale, e ne approfitta per stappare. Allora ho visto Massimiliano, a me stamattina si è bevuto un paio di bicchieri, lui già il vino già gli piace anche tanto, come me l'altro, c'è cioè, il vino buono, a voglia se ci scende, anche mangiando salsiccia, formaggio, come fanno nelle zone di Usilo. Sole, io guarda, la vigilia di Capodanno, di Natale, era a casa di mio cognato, dovevo guidare e non ho toccato un bicchiere di niente, anzi bugia, ho toccato un mezzo bicchiere di vino bianco cucinato i gamberoni, e non ho toccato altro perché dovevo guidare. Oggi gli ho dato un pochettino vento col vino rosso che l'ho comprato da Ussi perché è il mio compleanno, se no proprio zero, non domani notte siamo ad Alghero, quindi non devo toccare niente da bere lo stesso perché devo guidare, fatelo pronto. Sì, io guidato, sono andato anche alla chiesa di Coso, di Ottava, siamo arrivati con tutta la messa di mezzanotte lì, poi sono tornati indietro, non ero corto, non ero, diciamo, allegrito e buono. Ma già, non è fatto che non eri corto, il problema se ti ferma ti fanno il chilometro. Anche se toccate uno o due bicchieri lo so che non sei cotto, però per la legge sei cotto. Quello è vero, infatti. E vabbè, diciamo che io non bevo mai, Massimiliano, non pensare che non bevo mai, approfitto solo queste occasioni qua, quando siamo con la gente, qualche bicchierino in più lo bevo mai. Non ho vizio di bere, anzi non ne bevo, mia moglie a tavola se lo beve il bicchiere di vino, io mai. Bevo solo se il vino mi piace, deve essere, il vino non deve essere asprino, perché se è asprino non mi piace, deve essere un tantino dolce, si deve sentire un po' di dolce, deve essere amabile, poi magari è forte, però come quello di Usine che mi hanno fatto assaggiare, era proprio amabile, il sapore è buono, proprio un dolce delicato, cazzo, è poco picchia. È positivo, i vini così di proprietà sono sempre abbastanza furti, dai, diciamo, io ho preso questo da Ursi che è micidiale, però lo so che non bevi già, però il problema non è che tu non bevi mai, quando guidi che ti fermano, se tu non guidi, se non bevi mai non è che li interessi tanto, il problema quando ti trovano con il chilometro, bevi o non bevi, e chi c'ha ragione, a me la patente però quella mi serve, quindi preferisco rimanere tranquillo, diciamo, che farmi prendere la patente. Pregato Griglia, io la verità mi è andata bene perché ho fatto la strada a vari punti a Ottava, ho fatto quella strada lì, andando piano, tranquillo. Andata, non c'era nessun posto di blocco, sono mezzanotte e mezzo, no, mezzanotte, perché siamo andati alla messa a mezzanotte. Infatti stavo guardando se c'era barra vicola, l'anno scorso l'avevo trovata, invece quest'anno non c'era. Cosa c'era? No, noi siamo andati lì a casa di Coso, di Gavino, e siamo andati via che erano le 2:30, le 3 forse. E la verità non ho trovato nessun posto di blocco, ma comunque ero tranquillo che non avevo toccato niente da bere, quindi non c'è problema. Ok, riprendi, cazzo. Non bisogna bere quando si deve guidare, solamente quando sei in casa, mica ti figli, ti diverti, ti pronti a sbizzarrire, intanto se quando sei corto già c'è il letto vicino, ti rompi. Poi la mattina magari ci vuole stress che fastidia per il mal di testa, perché soffre di cose, se no già ti passa così, fa una bella colazione e sei tranquillo. Il ceccio va via. Ecco. Non è stato il becco, comunque c'è un po' basso il segnale. Se bassino di segnale, poi non so, guarda il giorno, torno al 9 metri, però se basso. Ok. Ecco. Buonasera a tutti quanti i componenti del canale 10. Da questa parte Leoncino che vi super saluta con la buonasera. Vabbè, riprendo io, ciao Leoncino, la signora Bordone in compagnia di Gianni Ropio Room, vai perché vuoi. Sera, Gianni, ciao Antonello. A Giuseppe, ben sentito, ben intratto. Tutto a posto, tutto a posto? A pacca. Ci stiamo preparando per domani a fare la battaglia, grande battaglia, magari speriamo che ci sia lavoro, almeno sono contento. Lavoro in seguito, adesso si vedrà un po' se le cose migliorano. Cava, cava, avanti Gianni. Ciao Leoncino, mi hai sentito, dai. Scappa. Ma c'è anche cosa? Daniele. Oh, buonasera a tutti, ciao Gianni, ciao Bulldozer, l'hai sentito? Ciao Leoncino. Oui, Daniele, ciao. Daniele, buonasera, buon ascoltato anche a te. Ciao Daniele. Certo, me stavo dimenticandomi, il mio ruolo è stato partendo già adesso, cosa dite? Se non vai già schiacciato lo conosco subito questo... Registrate il break, avanti con la buonasera. Buonasera, buonasera, avanti con cu. Chi è quello che aspetta tra i boh? Se non erro, capitale, K2 mi sembra. Buonasera. Ma non ti sto ascoltando, parli per bene. No? Tipo? È tipo, il segnale ci sì, ma la radio non è... Non so se è appena acceso, No, è acceso, diciamo, la... No, riprendo, la luna che qua è acceso per scaldare. Adesso aspetta che controllo un po' di cose qua, riprendete. Senti, ora ti ascolto un po' cupo. E niente, va bene, ok, non è niente. Ciao, Caparuna, buonasera, ben entrato, avanti per te, se mi ascolti. Santiago 2 mi arriva a me addirittura, la radio è 2,5-3. Qui c'è il di porco. Dire di porco. Quanto il gruppo tuo io? Qua è Masso, vabbè qua è 2, mi segnale, ma radio 1,5. Buonasera a tutti. Buonasera, ben ascoltato. Oh, Massimilia. Migliorato. Chi non è, però la radio è più comprensibile. Daniele. Beh, Lugariello. E grazie. Ma mi piace una signora, mi sento un po'... sta la modulazione, un po' bassina, dai. Dai, cos'è? 14. Allora, sempre Iddu. Aspetta, ascolto un bel. Allora, ma anche noi siamo un po' così. Dovrò far controllare ancora. Comunque il bene, ti ascolto bene, non so. Avanti, fa un passaggio. Parla un po', Lu. Ora. Prova. Ripeto, il mio manacchino ha un problema di ricezione. Tu arrivi forte qua. Prova a attenuarti, vai. Cosa, Lu? Che provo a attenuarti, fa un passaggio. Guarda un po', 1, 2, 3, la Peppina fa il caffè, ora. Oh, perfetto la radio, non so, Massimiliano. No, io, attenzione, forse Daniele non mi ha seguito bene. Non ho detto che non è forte di modulazione, ho detto che è molto cupa la radio, non ho detto che non è forte. Vabbè, ci sei, cioè la radio 5, però ti ascolto un po' cupo, sono tutto lì, la radio è forte, segnale 9:20. No, eppure, guarda adesso, ora, adesso l'ho abbassata, eh. Allora fai dritto un coso, con la motobicicletta. No, è chiaro la radio, attacca il processore da mia. E c'è lui, c'è tutto, guarda, è staccato, ora si è attaccato. Guarda Emilio che ti stacchi un po' dal microfono. Guarda, adesso ho preso un palmo staccato, sto provando tutto, è un po' va, un po' non va, non so se è una sorta che abbia preso adesso, era l'altro giorno che è così. No, è che se mi è attaccato al microfono, non lo so, non lo so, vogliamo un po' con voi cosa dice. Sembra che c'è poca differenza quando stacca il processore, la verità, non lo so. O il microfono, non è che è cambiato l'interesse, che microfono si usava, le cose, non è che è cambiato l'interesse, no? È a 50 con po', è sotto, è su in. Allora metto a 500, magari un attimo. Metto a 500. Se non è un po' il microfono adesso. Aspetta, guarda, adesso è la manetta. Che vente adesso, brutta. Lasciando delle guardie adesso? Guarda un po', ora, 1, 2, 3, prova. Allora, aspetta, no, allora fa una cosa, fa il passaggio, metti l'assi a 500, giusto? 50, e con passaggio da attaccare, mettilo a 500. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E poi c'è un amplifica. Bravo. E allora mi ha preso anche il sincope al microfono, dai. Dove si copa il microfono? Non lo so. Forse perché era parecchio tempo, magari non lo usi, non lo so. Comunque, non per ficare molto, avete siete solamente lo stacco fa. Uh-huh. Però non c'è l'applicazione classica della radio di... Sembra che stai usando l'apparecchio senza processore, in teoria, a me. Tutto lì. Avanti Giuseppe. Ah, io 10, Radio Super 5. Giulia, mi senti a me? La matta te ne vai a Luca, va tra sotto casa. Stai esagerando, sotto casa. Sì, cioè, ma c'è sotto casa, cazzo, ma te ne vuoi andare? O no, a casa tua sì. Oh Luca, te vuoi un seggio d'acqua, chi è? Vedi un po' come ti arrivo ora. Ecco, adesso sì, segnale 6 e radio 5. Va bene, prova a vedere gli altri se mi sento. Prova a chiamare a Daniele, c'è Daniele Pomponio, ma penso che anche da Pomponio è migliorato, perché si è migliorato da me, anche da lui. Avanti Pompo, prova. 5 e radio 5. Ciao, va bene allora, dai, almeno ci sentiamo. Cosa hai fatto? Ho attaccato una cosina, vedete. Meno male, andava. Occhio che c'è stazionale e stai di far passaggi corti per quello. Avanti Daniele, lo senti? Non sono migliorato, dai. 9 di segnale e radio 5, va bene. Sempre bene, comunque, forse può darsi pure sia la mia zona negativa. Emiliano. Allora. E io come ti arrivo lì nella tua zona? Com'è? Il segnale buono, eh? Buono, 9:22 radio 5, va bene. Ok, grazie. Avanti, Luca di Montezemolo, com'è il segnale lì nella tua zona? Ah sì, aspetta. Buon passaggio. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 5, 5, 5, 5. E 9:30 quasi. Cappa, beh. Là, vedi, 5 watt di baracchino, Luca, 5 watt, e non c'ho niente, 5 watt solo c'ho. Vuol dire che l'antenna non è solo, sarà puntata verso di me, verso la sua zona. No, arrivate tutti bene, tu Massimiliano, tutti, anche adesso K2, arriva benissimo. Avanti K2, comunque lì dovresti mettere una boomerang, oppure un dipolo fatto come Dio comanda, verrai che arrivi benissimo a Sassari. questo io ho provato a farlo e ci sono riuscito, però sicuramente con mani esperte ci metto. Io ho fatto quello leggendo da internet, un po' di consigli che mi ha dato Giulio, ho provato. Però vabbè, come l'hai fatto, scusa, questo di pollo? L'attacco come l'hai fatto? APL? No, allora gli ho collegato i fili, il positivo, il caldo col centrale, la massa col freddo, però non li ho collegati al coso, al PL. Poi gli ho fatto sotto un giro del cavo di quello che scende al barracchino, un po' di giri, non so come si chiama, il balumbo, quella roba lì. E niente, poi l'ho attaccato al barracchino. Quel come si chiama? Quello, vabbè, lì quello che è il femmina del PL. Sono troppo sui squion di polo. Fatto come Dio comanda, Tu magari lo sai fare meglio, capito? Io però ho fatto così, anche le misure sono andato accorciando finché non c'erano più stazionari, però adesso come l'ho messo dritto, le stazionarie sono a due, prima non ne avevo a zero. Vediamo che sia. Buttai il duce in gioco. Ascolta una cosa, cosa ti volevo dire? Ma ce l'hai sul tetto, sì. No, ma lui ce l'hai sul tetto? Sì, positivo, sul tetto. Ma c'è qualcuno, dice? Dire, è un casino. Vabbè, comunque ce la costruiamo, dai. Bisogna metterlo bene. Se lo metti bene, lo fai bene, non è che esci bene. Io mi ricordo quando c'avevo io a casa, l'avevo attaccato per 10 anni, poi l'ho ripreso con un baracchetto piccolo, l'avevo messo lì attaccato alla finestra, a lui invertita, a virumi, che c'avevo un botto dietro alla televisione. Poi sì. Cazzo, Lucia, ma lui sembra via, no? Un viso di mamma e l'altra. Buonasera. Chi ti ha dato dei polo a Capelgiosso? È già Paolo, La radio è invece. C'è nulla. Che riesce a uscire un po' comprensibile, c'è tutto quanto trodiato. Ma la metraggetta, quando la radio, cazzo, non si può prendere nulla che si aziende, ma poi va, riprendi. Non si capisce nulla, tutto boh. Tappino, vediamo. O se no, abbiamo un tettolo a Giampaolo. Ma guarda questo di polo, bene fermato. giusto? Dipende, dipende sempre, ho detto che può essere 2,75, può essere anche 2,72, 2,73, 2,70, dipende sempre dalla posizione in cui lo metti, è come devi accordare. Io quello che ho fatto, 2,75 col braccio, l'ho dato a uno che l'ha ben fatto e arriva a Santiago Nova, da Porto Rosso. Bisogna saperlo comprare, di poco, magari un video piatti uscito, piatta pure invertita. Un di poco, a voi invertita, è quelli di banda bassa. No, un catto degli 11 metri, lo buono a voi invertita. E così di invertire i corri. Adesso, non lo lancio. Vabbè, comunque è migliorato molto, ha sentito a... Non ho sentito, non so neanche cosa ha fatto, io sto accendendo adesso. Buonasera a tutti comunque. K2. Eia, buonasera. Ora sei 7-9. Prima di 7, adesso sei 9. Cosa hai fatto? L'ho messo in orizzontale come ti ho detto io. No, no, ho attaccato. L'hai attaccato, perché prima non era attaccato, l'ho buttato per terra. Adesso ho attaccato a una cosina. Allora va, mi ha ginocchiato, mi viene a disciplina, mi ha preso un cazzo di pene, ma ci vediamo. Ciao ragazzi, che ci devi fare? Ascolta, guarda che c'è Daniele, sicuramente c'è qualche problema di radio. Vai Daniele. Ciao, ben sentito. Parla un po', hai già saputo parlare l'altro giorno. Ma quando avevo cuoco, no, bravo, un c'era anziano, avrà avuto sì o no bello ti ha, no, bravo, bravo veramente, infatti era sempre lui a, come si chiama lì a, al caminetto. È buono quando è gratis, avanti, dimmi José. Non è andato a fare quel lavoro, Solè? No, negativo, non ci sono andato, anche perché non mi ha chiamato, quindi, anzi mi ha telefonato e mi ha detto che purtroppo quelle persone non potevano lavorare perché erano in festa, hai capito? Quindi si parla dopo Capodanno adesso. Però ripeto a lavorare lì nelle palcature, ci vado e stacco la parabola dove piazzata e ce la metto al posto suo. Le volte che abbia il capo addirittura, perché non glielo metto nuovo. Ah, capo. No, era per perché sei. Ma tu mi avevi detto che c'erano quelle zaffe per applicare al muro. Dove sono? Sono perfetto, sono quelle zaffe. Tanto già sono poco belle quelle zaffe, grosse, di tagli domani già. Ci vuole la mola, vivo, la mola grossa per poter tagliare. Quelle zaffe là. Non so se c'è mezza impalcatura, quindi non so, se c'è tutta, allora io te faccio staccare un paio di staffe, di quelle di fatte a V. Che cappa, vabbè dai, vediamo mercoledì, quando andiamo da, prima andiamo a fare quel lavoro là, e dai, sai che cosa, e poi ci avviciniamo. E vabbè, non c'è problema per quello. Andrà bene. Ah, però vai, i piccioni a casa. No, il microfono che ce l'ha qua. Schiaccio il pulsante. Che fa? Guarda. Però mi viene l'ultimo quando devo andare in bagno. E per quello che lo uso intanto per stimolare. Senti, sente basso. Beh, com'è il segnale lì alla 6, Antone? 9:10, c'era di 5 a bomba. Sempre quello, mio Antone, sempre quello lì. Da qua non si sposta più, ormai non lo porto più da nessuna parte, rimane fisso qua. E come ti ho detto io, infatti, come ti ho detto io. Se appena cambia il tempo, che fa una bella giornata, ci mettiamo le staffe nuove, murate, ce la piglia ancora, non sei tranquillo. Tanto vado ad andare a posto adesso. Sì, ma devo procurarmi un baracchino omologato, Antonè. A meno lo lascio in macchina e a meno sono più tranquillo, capito? Dunque, se qualcuno ha un baracchino omologato, facciamo lo scambio, gli do quello là e lui mi dà quello omologato. Come ha pigliato un nuovo, 60 euro, 65 euro parecchio monogato da Fusaro, ti pigli uno di qui di per prima adesso se ti chiamano per lavorare te lo prendi nuovo come faccio anch'io non lo pigliere monogato, adesso aspetta un po', non mi interessa niente, c'è questo qua e c'ho l'altro. Vabbè, fai girare, allora, avanti Massimiliano. Io mi stavo ascoltando, sono qua, no? Riprendi qua. Il gruppo Antonio mi ha legato, no, non voglio solo il baracchino, il gruppo Antonio mi ha legato, mi duca ce l'ha un pantone mi ha legato, un baracchino mi ha legato, vero? Ma noi c'è questo alla 34, ma è rotto, no. Tu qua, ma tu lo c'hai un V&U? No, l'ho venduto, lì ce l'ha di... Ma cos'era, mi ha legato? No, è morto, non vivo. Ah, no, era un ragazzo. Va bene, allora. Va bene, va bene. Avanti a chi tocca, chi c'è? Daniele, non ho capito chi c'è. Ok, te l'ho distratto. Chi sono gli altri componenti di questo canale? Preghito, mi viene in testa. E chi è? Guarda che nome ragazzo io. Ciao Giuseppe, buonasera, chi è l'altro malegato, chi è? Ciao Claudio, buonasera. Ciao Giuseppe, ma chi è? Oh, Massimiliano. Oh, questo è Marto Gigi, però molto basso. Gigi, tu sei? Io sono un malegato, un monogatto. Basso sei me, lui. radio sei bassissimo. Daniel, riprendi, vai. Dai, già sono qua. Ah, non sapevi che saranno dei numeri. Magari, ma si inchioda la smetta da 9:20 come se fosse una portante, però come tra l'altra parte che portante non ce n'è. Bisogna vederlo sul posto, capito? Bisogna vederlo sul posto, ma io come sto uscendo? Sto usando l'M500, ecco ce n'è, com'è sta cosa? Me l'ha amplificato, ecco, però ecco non se ne sente. Forse l'ha chiuso adesso leggermente, si sente detto. Allora, anzi un pelino si sente. Sono quelli propagazione. E ora sta propagazione, non sento niente, io mezzo giorno andava. A te i vuoti, a te. Già i vuoti, già fai. Volta, volta. Allora bisogna vederlo sul posto, non so, così non ti posso dire che difetto sia io. Che non si sia aperto, ma non è che c'è il coso, no? Il, dove c'è scritto RF, no? Non è che si va a attaccare, no? Cosa, car? Lo RF gain? No, RF level. Level. Capito, non lo fighino. Level. Guarda che non abbia quello lì toccato. Quello deve rimanere tutto a retta, tutto a bere. Adesso il massimo, c'è quasi al centro qua. Allora tu mettilo tutto a destra, vedi che è rotto lì i 9:20. Mettilo, deve restare tutto a destra. Capito? Tutto a destra. Perché sai, tutto a destra non capisco più la remodelazione, capito? È tutto distorto. Allora niente. Ha scritto non NB level, RF level, NB level deve rimanere al centro, c'è scritto RF level, tutto a zero a destra, non a sinistra. Quello sopra dell'NB, quello sopra dell'NB, l'altro level dell'NB deve essere chiuso tutto a destra, praticamente al massimo. Qualche spettone, Luca, riprendi. Io riprendo la luce, dopo, ciao. Claudio, Claudio, spiegaglielo tu, già lo sai, no? Diciamo, ragazzino base, capito? No, ragazzino base della President, della President, ragazzino base, 40 canali, capito? E 40 canali dopo, pure in massa. No, cos'è che c'è? C'è altri canali, a parte 40, ne ha altri 40 ancora. Ciao, ragazzi, tu ci vuoi dire 40 canali, tu ci vuoi dire 40 canali, buh. Ok, però lui ne vuole uno moderno per mettere in macchina. C'è per qualcosa lui, un Galaxy Pluto. Io ho fatto, non c'è il Galaxy Pluto. Sì, ma io sì che ce l'ho, ma se mi dà, ce l'ho, ma in macchina non lo posso mettere, capito? Non è quella questione lì, capito? Ah, positivo, quindi neanche questo te lo hanno messo, che te lo hanno messo allora. Capito, no? Capiscimi tu al volo. Oh, Claudio, è quello... è lo Santotto, quello che le fa delaterare, quello a 40 canali, quello che può mettere in macchina, quello monogatto, eh. Eh sì, positivo, quello monogatto, sì. Quello me l'hai chiamato, quello va bene. No, lui c'ha una cosa, come si chiama, una... è un Galaxy, però in macchina non lo vuole vedere perché non è monogatto, giustamente. E allora stai cercando un barattino omologato, no, capito, Massimiliano. Va bene, va questa radio, Massimiliano. Cosa, no, Cla, scusa? Ho detto se va bene questa radio. Va bene, ma forte, se può passare appena. E cosa devo facendo? Se tocco, cosa possiamo facendo? Tieni un po' se bucalito, e boh, così è, così meglio va. Sì, così è molto meglio. Vabbè, diciamo che io c'ho un po' di propagazione, non so se tu lo stai ascoltando, ma c'ho un po' di propagazione. Ho detto sto ascoltando, io sto andando con 4 watt. Con 4 watt, questo è il DAC con l'M500, Daniele. Questo è il DAC con l'M500. E va di luce qua, va bene. Guarda, tanto che non lo accendevo adesso, bisogna che scaldi un po' le valvole e poi esce sicuramente molto molto meglio, va. Però già, in compenso già si può usare. No, se tu il Mickey Game, non è un Mickey Game esterno, o Massimiliano, capito? Perlomeno ce l'ha, ma c'è il potenziometro che è rotto, quindi l'ho regolato all'interno e facciamo un po' abbassare il Mickey Game. Il microfono ce l'ho a due. Ho tolto l'eco, era giusto per capire se funzionava l'eco dell'M500. Però non si vede che, capito, è regolato dall'interno, là, perché non sono riuscito a trovare un potenziometro molto molto particolare, casino. Comunque regolato dall'interno già va bene. Avanti, mattonello, motopompa non c'è più. Sono qui, non ti preoccupare. Piccolo, piccolo, piccolo, è stato colato, vedete che ho perso l'impianto del palazzo una notte, quindi io sto usando questo, che va bene, omologato, da fuori, e anche Pandoro, da dentro. Recco, recco, recco, vediamo un po' se sta uscendo adesso. E già sta uscendo, già sta uscendo. Cioè, io non ho capito, cos'è il brutto, ma questo brutto funziona? Funziona questo brutto? Io c'ho questo che sto parlando adesso, questo è un monogatto, però c'è anche la banda musicale appresso, questo qua, però è un monogatto, capisci? Questo è un baracchino nuovo che mi ha dato Claudio in cambio di un'altra cosa. Io voglio capire se questo brutto funziona o non funziona. Washington da base, 40 canali, da mettere a casa, ok, hai capito? No, capito che non me ne faccio nulla di quel presidente lì, no, no, no, questo è molto superiore, per quello mi tengo meglio questo. E poi quello del giorno è dopo cercando? Oggi è un Galaxy 2, non è brutto. Positivo e caparroggio, dai, noi ci teniamo questo che va bene, sta andando bene. Questo col microfono gli ho fatto un adattatore che quasi in 3-4 giorni si è mangiato la batteria, adesso gliel'ho fatto diretto io con una cosa 9 volt. Conte, anche a numero, l'ho trovato a 7. A 7 va bene lo stesso, questo è a 7. Tre giorni si mangia una batteria. Chissà non se la mangia, chissà non se la mangia, chissà è diretta, attaccata alla correggia, va. Bene, va bene, voglia. No, però devo dire una cosa, se non è normale che si mangi le batterie, capito? Non è assolutamente normale. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perché la batteria deve durare, non se la devi mangiare. Non è perché, anche questo è il 500, ce l'ha dato per i 9 morsi, allora io ce l'ho 6 mesi, lo uso spesso, è attaccato anche a un altro barattino, ma non è che si mangia la batteria così. Dipende dalle connessioni che sono state fatte. Non se la deve mangiare la batteria, non è normale, capito? Hai ragione Claudio, ma se tu questo microfono non lo spegni, te lo dimentichi acceso, dopo due giorni vai e lo vedi ancora acceso, quella batteria dove pensi che sia andata a finire? Perché anche questo si accende, infatti, però bisogna ricordarsi di tenere gli spenti, perché sia quello, sia il 908 della 12 si accende, le MC80 e le MC85 puoi lasciare giorno e notte accese, perché quando le mettete una dalla radio, non ne hanno batterie. Però questo è, la 12 hanno le batterie e quindi bisogna dire, no, pensavo che le consumava mentre. Se non lo vuole fare lo scambio non ci posso fare niente io. Oh, Claudio, rimane qua, se quando non lo diamo o lo prendiamo un'altra persona che già me tu mi capisci e basta. Allora, se voleva fare lo scambio io l'avrei fatto volentieri, non ci sono problemi. Comunque va bene così, là non c'è problema, non comprendo. Quando avremo possibilità di avere qualche soldino in più, vado e me lo compro, non c'è problema, amico. Là. Certo, non ci devono essere mai problemi, se lo scambio non si può fare, pazienza. Giuseppe, non vuoi una microfono, tu vuoi in macchina? Io ne ho uno piccolino, un 40 canali piccolino, che mi pare che l'hai visto per la macchina, ma è proprio piccolino, se vuoi te lo faccio anche sentire, ascoltare. Non so, se mi piace quello lì, cambio, non lo so, però quello è piccolino piccolino, che ce l'ho già un sacco d'anni, ho sempre appeso qua in garage. Quello è un monogatto, è un Midra di quelli piccolini, e mi pare che ce l'avevi pure tu una cosa del genere, già, se non sbaglio, e ce l'aveva già lui una cosa del genere. Ma qual è quello nero? Per mettersi lì in barca. Allora l'importante è che ci sia un barchino per la macchina, capito? È positivo, se no se può prendere un indichista paiette da Fusaro, e mi pare che costano 65-70 euro e si mettono di quelli lì. Ed è un 40 canari. Ma infatti, allora deve essere ci sia il un baracchino per fare praticamente il corso, due chiavi di macchina, poi di qualsiasi marca sia non è un problema quello, capito? Tutto qua, va bene, avanti un po'. Va bene, c'è un po'. Si sta facendo la doccia. Non so neanche chi chiedere, c'era un paio di quei 34 canali AM/FM, in giro, ma non li ho più sentiti né visti, proprio erano c'era il cugino di Fabio, e c'era la gabbia nuova, mai agganciato. Non lo so, se vediamo un po', se anche un FM500 ma cioè 500 adesso non ti conviene, un 543 SIX da 40 canali MFM va bene. Vabbè, non c'è problema, non c'è problema, dai. Già riusciamo a attaccarlo, dai, non c'è problema, non problema, dai, non ti preoccupare, dai. Va bene, non c'è problema. Quando, te l'ho detto, quando metteremo un polso lì da parte, vado da Tonino e da Busaro e me lo prendo. Punto e basta, boh. Allora. Non ci sono problemi, dai, ok. Ti come l'ha tirato la Fusato, ti ho detto, costa 75 euro. E poi era anche modificabile, quindi già da... Ti come l'aspettare, ti conviene. Tutta la base te lo tieni da parte, almeno ce ne hai uno di riserva. Capito? Non c'è problema, dai, ok, dai. Va bene. Riprendete voi, dai, che rimango in quelli X, dai, e sto facendo cosa, dai, ciao ciao, ci vediamo dopo, ci sentiamo dopo, dai. Luce. Ega. Io sono voce, un freezer a bozzetto. Ma c'è un freezer a bozzetto? Poi sentite, l'ho messo in macchina, piccolino, però omologato. Se prende mi metto quella giù in macchina qua a casa, che ci sta benissimo. Ma questo è omologato, la cornetta ti la devo ricurre sul di là, per favore. Io, per carità. Io tutto c'è l'olio della Coca-Cola, quello piccolino rosso, che fa la scalda più grande e la fredda lattine. Quello della Coca-Cola, l'avevo trovato una cacciola una Mondezza e funziona. Ho capito solo un pulsante. Positivo, era positivo, ok. E poi mi dai. Oh, ma si vede, ma questo si è fermato, sta uscendo in radio. Ma io ti ascolto un passo, non so perché, ma un altro sta uscendo più forte. Ma quella cosa banca quando possono salire a prendere, ma ehi, devo svuotare, ci devo tirare la roba sopra, fermi. Devo adesso comprarmi due vetti, perché per terra se ci sono già, li ho già presi, devo comprare due vetti e poi ti chiamo e ti metto la cassa banca di roba e si può tirare quello che c'è in più di qua. Ciao, non già ho buttato un po' di roba. E c'è qui nella camera. Adesso mi appena sono pronto ti chiamo. Così te la porti via, me la togli la mette i piedi. Che non ci fa nulla questa casa panca, è l'ingombro e basta. È positivo, fammelo sapere. Quando devo venire a prendermela, che così tengo un sedile, capito, dalla macchina. Così ci sta meglio, ora. Ok. Tu prendi Gigi. Ah, oh, so, la regia. Come si è preso questo palazzino? Perché non lo so, non stavo facendo mobile e non sto ricevendo come devo ricevere. Guarda che la bella. Ma del radio non sei tu del radio. È un telefono che stia girando così alla grande. Però la radio ti sento molto basso. Non ho capito se gli altri ti ascoltano bene o male. Dai, non ci sei ancora? Il segnale qua è 9 o... solo che c'è la rimulazione bassa, ma c'è proprio l'antenna in quella macchina. Basta magari la suita appena la, e poi la ripiazza nuovo, come si vede, magari entra acqua, non si sa. Se è in macchina, boh, o non ho piazzo il corpo con l'antenna, non lo so. Io sono qua, io non c'è problema. Positivo. No, non è in macchina, no, lì, a casa sua. Prima ci vuole un po', ma con questo sta facendo molto basso, non ho capito il perché. Ok, dai, riprendi qua. Io c'è, chi è che chiama? fino a un pochino. Ma allora, è cosa che... Ma ne... boh, non lo so, è tu, claro, ma allora che cosa che non va questo carabino là? Sicuramente sì, c'è qualcosa che non sta... che non sta andando bene, capito? Se poi uno ha problemi, Allora è chiaro che, come Antonello, Antonello mica la radio che disturba, è l'impianto che è andato a farsi fottere, quindi chiaramente deve usare un baracchino un po' più basso di potenza, ma niente di particolare, capito? Non c'entra nulla. Va bene, facciamo girare, Massimiliano, vuoi riprendere o cosa stai facendo? Ho ripreso, ho letto tutti i messaggi, va bene così. Scusa, non ti ho capito, Massimiliano. Vabbè, io sto andando a questa, se ti può interessare. Quale? Questa è comodulata adesso. Quella, vabbè, quella l'ultima che ha fatto Rapino, stai dicendo. Positivo, ci sono i finali nuovi, che va molto bene. Come mai te la stai prendendo, Massimiliano? È così bella. Poi, vabbè, c'è di meglio. Non è che non mi interessi, però non mi sono riuscito. Positivo, Gigi, dipendi. Antonello, buon pugno. Questo c'ha 10 watt e 25 in mano laterale. Va forse per attaccare la lineare. No, lineare. L'amplificatore ce l'ho, non c'è problema, non ha guardato l'amplificatore, ma non uso quasi mai questo, adesso c'è la lineare, giusto per farglielo sentire, l'altra volta mi ha detto come stavo andando, allora l'ho commutato, dove c'è l'antenna, è sotto antenna, è sotto il commutatore. E quindi per fare due chiacchiere, visto che siamo tutti vicino, non ci sono problemi. Ma perché Giampano, mi ascolti? Ma come se non ti ascolta, mio caro? Guardi, ecco cosa mi sono ricordato. Quando ti capita, se per caso qualche numero vuoi ordinare quei commutatori da 1000 watt, quei di ZG, quel numero uno, non ti dimenticare. No, ZG io non l'aggio, e non ne ho mai ordinato. Anzi, l'ho ordinato e l'aggio bruciato tre volte. Io c'ho quelli della Uxin, che sono un'altra cosa, non ZG. Io c'ho quelli della Uxin che li faceva la Raiva, e ne ho tre, tutte e tre accoppiati, non so se li hai visti. Sono tutte e tre accoppiati, proprio attaccati al muro, tassellati al muro. E li aveva comprati Fabrizio. Allora, comprati Fabrizio, uno stock, vanno molto molto bene, ma quelli hanno all'interno il commutatore ceramico, mentre quello del ZG è un commutatore normale, se superi i 100 watt, non 1000 watt, 1000 watt c'è scritto, se superi i 100 watt, 200 watt, ti si brucia tutto. A me mi si è bruciato due volte e traggio un padre uomo. Infatti ci sono tutti di minacci, mi mandava tutto in corto. Già avete parlato assieme, sì, già è così. Sono dei commutatori belli da vedere, ma poi quando li metti in atto, inizi a attaccare le antenne, a dargli un po' più di potenza, ti mette in corto tutto il circuito di commutazione, e c'è un casino, anche a Giampaolo la stessa cosa. Mi ha chiamato, cazzo, no, che avevo più nudo, un casino, visita di due, boh, qui è successo manicomiando, e c'aveva tre commutatori della ZG, tutti e tre in corto, mi ha tolto il commutatore, ha attaccato tutto diretto, una canonata. E sono quelli che hanno preso cosa? Capito, me ne hanno preso 4, 5, mi pare tutto un po'. Quelli da 12, 13 euro, non mi ricordo quanto costava, quelli lì sono, che vanno molto bene. Quelli sono una canonata, io attacco il kilowatt, no, non mi ha mai dato, ma poi sono perfetti, capito? Io l'ho aperto, c'erano il commutatore all'interno in bronzo, leggero che commuta, c'è questo piatto in bronzo che commuta, quindi non si consuma, chi dove il ferro, il ferraccio, l'amierino, no, la ZG, guarda, l'unica cagata che ha fatto il commutatore d'antenna, perché per il resto sia strumentini, insomma, ha fatto un sacco di cose fatte bene, ma il commutatore d'antenna ha fatto proprio una gaggada. Comunque, se per caso, se ti capita che vuoi fatto fare qualche ordine, mettimelo in mezzo uno o due di quelli, capito? Va bene, mi ha fatto male non prenderne una cassetta intera alla volta, capito? Ne abbiamo fatto male, perché altrimenti l'avremmo avuti tutti quelli e vanno veramente molto bene. Non perché ce l'abbia io, ma io ho fatto 1000 prove, addirittura l'ho usato anche per le VU e le UHF per commutare un'antenna da una parte all'altra di una radio, senza trazionare, senza niente, quindi sicuramente è un commutatore che va bene anche per le VU e per le UHF, cosa che quello della ZG ti manda in corto quanto c'è e si allunga tutto, capito? Avanti, Daniele, riprendi tu e vai per Gianni. Dai, riprendo io e mi devo allontanare un secondo che mi calcola che facciamo un girettino. C'era anche Luigi, mi ha portato un secondo, dai, riprendo subito, vi faccio un altro paio di passaggi. Dici un caso, riprendi? E riprendi tu, già ne ho più lungo. Paga, va bene, allora Bonquerix, se stai in ascolto, va. Bonquerix per il momento la Siviglia, poi magari se vuoi rientrare non c'è problema. Claudio, fai girare, dai, mi sa che c'è anche Giampaolo a Portottore, se lo saluto, perché non ho avuto modo di salutarlo poco fa, lo saluto e vi rilancio il bicchierino, va. Tappa Giampaolo, dai, va bene, non c'è problema. Riprendi tu Claudio. D'accordo, sì, lo sapevo, c'è Giampaolo, ma mi parla Alberto, già dopo canti che c'aveva gente. Va bene, quando vuoi siamo qua, Giampaolo, non c'è problema. Ok. E quindi come è meglio? Così senza... Oh, aspetta, così. Così c'è l'eco per appena. Oh, troppo. No, è proprio una cosa irrisoria. Così questo passaggio te lo amplifica anche di più. E secondo me è migliore. Ma sono tutti e due buoni i passaggi, senza ombra di dubbio. Tu qui ti dà una leggera amplificazione in più. Già, ma è già con me questi MC500, anche l'MC100, capito? Ce ne ho tutti e due, MC500 e MC100, ancora di microfoni già ne ho. Non è un problema. Però non lo so qual è che va meglio, ma sono tutti e due uguali, non c'è lo strumento, no, dunque sono tutti e due uguali. Ancora ci sì, molto poco. Pensando, Clark, con le batterie che vendono i cinesi della Duracell, se non è che gli danno gli stock che gli escono male, che li caricano troppo, perché cazzo questa qui superava i 10 volts, 10,8, quasi 11 volts. Non ce la sanno comprare loro già, non ti preoccupare, loro prendono degli stock magari tutti interi e poi se li vendono così, capito? Non è che sono contraffatte, già sanno di comprare, c'è una roba di marca anche adesso, io da poco ho visto, sono andato così a prendere delle fesserie, ho visto che c'hanno il rasoio della Brown, quindi vuol dire che non è cosa brutta là. E sono negozi magari fallimentari, loro contano lo stock della roba che c'hanno dentro e se la rivendono. Sì, ma non era mai capitato, io solitamente quando compro le batterie, compro per la soddisfazione personale le misuro, superano sì 9 volt, fa 9,5, 9,8 massimo, queste qui sono 10 e passa, quasi 11. Già così sì, già può essere, no, già può essere, va molto bene, va bene, no, io ne ho preso due pacchi di quelli da 1,5, sia quelli piccoli, beh, le mini torce, come si chiamano? Le mini torce e le mini mini, quelle fini per i cosi, per i telecomandi. E sono fine, adesso mi ricordo che marca siano, però non le avevo mai viste, avevano sempre quelle rosse che si vendono nei negri mini, che non dura di nulla, lo buono è una ghiera ed è andato, capito? E Dani? Sì, mamma mia, quella è una settimana, non c'è più. E quindi mi sono accorto lì che c'era qualche variante, hai capito? Comunque lì ci sono tutte, ci sono stilo, mini stilo, torce, tutte quelle che ti servono, c'è proprio l'espositore, davanti alla cassa c'è un espositore grande, tu vai e te le scegli, ci sono scritti i prezzi, quanto costano, e non si regola, capito? Non come quando vado a banchino, date 5 euro, 6 euro, addirittura qualcuno mette anche 7 la pagata, ah, è una cosa esagerata, io 3,50 e me ne giubilo a 2,2 per il prezzo di 1. Prendi un secondo, va. Volevo lasciarvi che vi saluto, se devo uscire. Buona serata a Giorgio, Gianni e tutti gli ascoltatori che ci sono al canale 10. Faccio un corretti, buona serata e buon continuo del corso. Io chiudo. Ciao ciao a tutti, riprendi caldo. Ciao, ci vediamo alla prossima, stammi bene, se uscire più tardi e se no a domani, buona passeggiata con tutto, avanti già. Ciao Massimiliano, dai. Buona passeggiata, già va bene, l'aria fresca, già fa bene. Ogni tanto, stai sempre in casa, tanto ti annui qui. Va bene, dai, ciao e buona passeggiata. Io la verità un po' ciabattone lo sto diventando, sta un po' di tempo a questa parte, non mi piace più uscire la sera. La mattina magari esco, ma la sera no, non mi piace più, mi piace starmene a riposo, e anche lì la maestra io. Ci vedi che stanno da mio zio a farmi compagnia. Allora trovi un fuggio, già vai, non c'è problema. Non aiutare ad andare. Beh, comunque se sei a Capodanno, se sei a Ragno, fatti sentire, ci vediamo. Io domani, come ho terminato di lavorare, mi trasferisco, capito? Ci trasferisco. Capito, lì a Giardinia. Va bene, d'accordo, là, già ci aggiorniamo. Ciao, buona serata, buon tutto, saluto lì a casa. Vediamo se c'è Daniele. Daniele. Quello lì non si può riattaccare, scusa. albo. E magari spostando e facendo riesce a regolarselo bene. Non c'è niente da regolare, non c'è. Non c'è niente, è una sede fissa e boh. Si è rotto l'investimento della membrana praticamente, dopo attino alla voce. Quindi lui sta entrando con tutti gli acuti ed è chiaro che fa distorsione come voce, non c'è niente da dire. Ascolta Daniele, cambia l'impedenza da 50 a 500, fai la prova, fai la prova, vedete. 500, scusa. 500, forse è cambiato qualcosa. No, è peggio, rimetti da 50. Va bene, mi fa piacere, se ti fa con rivestimento paracerale nella capsula e faceva fare quella voce così. Guarda, è per una cazzata. Ah, se la modulazione è anche più forte, mi dà. Cambia, questo è proprio apposta, quindi non più si può fare. è tutto buono ciò che finisce bene, a me non va niente, si è messo l'animo in pace. Sì, ho liquidato due volte, ma non c'è radio, una mazza di nei guai, ho fatto un bel pericolo da me con la radio e gli ho fatto un sacco di cosettine, adesso va molto bene con la radio, che la usa poco, è nuova, è nuovissima. Quello che l'ho fatto prendere io era la mia, l'ho presa al mio, la Pinangelo, ed era quella mia. Pinangelo ne avrei tutto una, quindi. Non ce l'ha più due, dice di 4,40. No, 140, si è tenuto il 4,40, c'è cioè dal 4,40 al 140, si è tenuto il 4,40 e il 140 mi avevo detto a me se lo volevo io, ma io ne avevo già tre, perché avevo preso da poco quello tuo. E quindi la tua, se lo scavento, che ho fatto Daniele, lo stava cercando, ho detto, ma è Ranghiero, la mamma mia lui neanche lo conosceva. Ma la mamma mia ti fa fare quello lì, che è nuovo, è tranquillo, e non ci sono problemi, infatti non ha mai fatto un difetto. Ma è difficile il 140 rispetto al 440 che faccio difetti, questo sappiate, il 440 è superiore, ma il 440 già da tantissimi anni ha tirato fuori un difetto a muscolo che è una grande rottura di balle. Sì, praticamente azzerano i valori del muscolo e succede che tu accendi la radio e ti fa tutti i puntini e non ti appare il frequenzimetro. Quindi devi aprire la radio, mettere l'oscillatore di frequenza, misurare col tessere tutte nuovamente le tensioni, riportare le tensioni come erano, riallineare tutto, una grande rottura di palle. Eh sì, me lo ricordo perché Fabrizio l'aveva detto che succedeva questo problema qua. Poi ogni tanto dice che lo rifà, dopo un po' di anni lo è sempre ripristinato perché ogni tanto lo fa. Il 140 invece problemi io quando l'ho avuto non me ne ha mai dato. Il 140 che c'ho io, quello che mi ha dato tu, quando mi aveva dato battaglia con la madre mi ha fatto fare di tutto e di più. Adesso li sto tornando, anzi l'ho tornato veramente. Perché questo qua era sempre fermo, sempre acceso, mi non andava in trasmissione perché non lo stavo usando. Allora ho cambiato posto e sto usando adesso il 440, il 140 l'ho messo in banda laterale, quindi è 20 metri, ma è una cosa spaventosa. Spaventosa di quanto pompa. A volte mi dicono, ma cosa stai usando? Io, ecco, una radio da 10.000 euro, guarda, meglio di questa non ce n'è. Ma che radio è 7.008? 7.007, 9.000, 9.000, ma guarda, non ce n'è, di dicendo che non ce n'è circolazione, non ce n'è, sto usando un mitico 140 e tutti si muovono a venire. Ho fatto solo fa. Tante volte le radio, diciamo, di un certo livello non arrivano a quello che fa una radietta così, perché diciamo è qualcosa più di un baracchino, non è che sia, però diciamo che è una radio che si fa sentire, dai, piccola ma sincera, come si dice. Non mi hanno fatto per Spirito Santo, la radio che non crea problemi rispetto al 440, quindi non succede quel problema della perdita delle tensioni sulla parte del VCO, è il 430, prima era il 140. Il 430 non mi hanno fatto un difetto perché è un altro sistema sul VCO, ha le linee dirette con la rallentazione a 12. Capito? Mentre invece il 440 è alimentato da condensatori, eccetera, eccetera. Quindi il 430 è pure un bellissimo ricettore mettitore, il 430, non ha l'accordatore, ma chi usa l'accordatore di linea esterna o chi ha un accordatore anche manuale, bello, il 430 mi è sempre piaciuto più del 440, anche esteticamente molto più bello, molto molto più bello. Vabbè, e quello ce l'ha Giampaolo, quello ce l'ha Giampaolo che era lo stesso il mio. Adesso dobbiamo fare alcune cose prima di andare, vediamo. Ok, non vorrei riprendere in attesa che rientri la mia ora. Vabbè, sono belli apparati, c'è sembra di dubbio. Peccato che hanno i suoi anni e magari i componenti sono stati sfruttati e ogni tanto magari può succedere che qualcosa parta, però sono degli apparati, io quella linea lì mi piace molto, quella della Kino, tutta quella linea 430, 440, eccetera, eccetera, sono tutte radio molto belle, anche quella che c'ha Alessio va bene. Scusa, c'è Alessio, la mia lo stesso, che l'ho condotta 10 o 12 anni fa. 10 o 12 anni fa, guarda, non perché io non devo vantarmi di niente, però il primo modulare con il tempo che siamo stati a Sasso, io Marco 131 e 27, ci avevano tutti e due il 430, io prima del 430 avevo il 757 GX2 che era appena uscito, avevo l'1 e poi ho preso il 2, linea completa, che poi l'ho venduto all'animatore bravo. E da lì mi sono comprato la linea Kenwood. Da un giorno, dal 1986, io non ho più lasciato il 27, cioè ho messo la parte baracchini e ho usato sempre il radio, insomma, della Kenwood, 430, poi era uscito il 140, poi avevo preso il 440, insomma, e così via, poi e così. Vabbè. 940 addirittura rogo che lo usavo in HF. No, sono con la radio come vedi, anche a Capri non mi ha telefonato, ho detto dopo prendo un 440, di chi era Letizio, prendilo subito immediatamente, perché anche col 440 l'avevo fatto prendere io. Capito? Lui l'aveva preso da Mello, a Osilo, quando abitava a Osilo, la Mello l'avevo venduto io, quindi so perfettamente cosa c'ha con la radio, è stato modificato come corretto, c'hanno un sacco di ratti, e vanno molto bene. Io mi ricordo che con la radio lì usciva con dei ratti. Sì. Ah, beh, l'ho capito, che era. Mi abitava lì, non è solo. Abita ancora, c'è una bomba, c'è un 450, lui non lo sta più usando, infatti tutte le volte dice di là, mi sale però, non c'è problema, però già la facciamo andare, io non c'ho più tempo, qui o là, però, non facciamo andare a portare. Avanti, Daniele. Allora, ma mi sono entrato, sono fatto una cercata che ci voleva. Che Luca si è dato a tutta la Giglia adesso? Sì, già lo so. E gli ero accompagnato io a cosa? Dove gli ero mandato a dare l'esame? Vicino a Vitano. Io lui e Stefano Principe. Era andato a dare gli esami. A fare il corso, ancora eravamo andati anche quando aveva dato gli esami. Il suo era l'aereo. Prima ce l'aveva in società con un altro, poi ce l'ha comprato lui. E Stefano l'aveva preso quel brevetto, ora non me lo ricordo. Sì, Stefano ce l'aveva prima venendo, è stato Stefano che l'ha messo in su. È vero che l'aveva contagiato lui. Poi c'era quell'altro che guidava il pullman con la moglie, non so come si chiama, adesso non mi ricordo, stavano anche in frequenza, ti ricordi? Sì, io mi ricordo già quei tempi. E poi mi abbiamo andato bene, ha subito l'operazione, quindi eccetera, un po' si è ritirato, ma ci vediamo qualche volta e sta abbastanza bene, dai. Capa, c'è qualcuno che chiama, attenzione, Italy Famous Sardinia, operatore Delta Romeo della città di Sassa di Sardegna che chiama, avanti. Tua City, c'è my friend, qual è la tua City? Me la dici, la città, City, operatore Delta Romeo della città di Sassa, di Sardinia che ti super cordializza, avanti collega, tua città. CPM, repeating un po' please, dove andiamo? Station my friend, signale, scusate, il cellulare? Beh, non è tedesco, è inglese secondo me. Qualche inglese con il camion in Germania, boh, di qui l'autista. Sì, sa che se si incubolesco. Ha pagato. Vabbè, dai, ogni tanto si sente qualcuno. Non abbiamo problemi, già siamo di nuovo. Para me. Tanto che sono meglio di prima, adesso. Non devo capire sul microfono. Brava, qua, mi così. Ti fa piacere, dai. Per me l'abbiamo sistemato per le feste. Oh, la sera, niente ancora? Sì, ho passato l'altra mattina. iniziano a lavorare, però non so chi. Poi il cantiere che apre. Ma non è il problema è che ti ho fatto le visite. È successo un mio amico, sa cosa ha fatto visite, cioè mio amico, me lo fa un cazzo. Comunque uno ha lavorato insieme a me. Visite, cioè, troppo, visite, tutto, e non l'ho mai chiamato. Infatti è entrato due volte come sono entrato io, questo qua. E mi sa anche che questo qua è entrato. La penultima volta siamo andati noi due assieme a fare la domanda, se ti ricordi? Perché l'ultimo, va bene. È entrato 45esimo, non mi sa. Come cazzo può essere che lui timbra dopo di me? Io sono molto molto prima, dal 90, lui dal 92-95, mi sa. Come può essere che lui ha fatto due volte il comune insieme a me e lui è entrato, abbiamo lo stesso codice, non è detto, forse lui ne ha più di me. E lui è entrato 40esimo, io 66esimo, 65esimo. Bello. Quello è un bel discorso. Lui avrà, non lo so, qualche santo in paradiso avrà. Non ce ne sono stati in paradiso lì, Novale. Nine. Perché ho visto l'altro giorno un ragazzo che ha fatto le visite con me. Che ho trovato qua l'altro giorno all'ospedale e fa, beh, l'ho chiamato, ho detto, io non ho chiamato nessuno ancora, abbiamo fatto le visite, però abbiamo fatto insieme, ho detto, abbiamo risposto anche ciò e che hanno dato i referti tramite mail e basta. Poi l'altra chiamata non ha avuto. Aspetta un attimo, grazie Lorino, stavo provando l'audio qua. Sì, ma comunque il problema è che adesso vediamo. Perché sono 20 anni. Allora prendiamo le altre, non è che mi interessi, poi dico prendiamo l'esempio tuo, tu ne hai fatto domande, ti avevo chiamato, tu conti la 90, che ne avevo chiamato due volte solo, capito? E qua dobbiamo un po' rompere le palle. Assolutamente. Lo so che ti rompere le palle per queste cose qua. Penso, hai detto, più avanti se ne parla. Allora, più avanti. Perché l'altra volta, non questa. La penultima volta ho detto, non è che mi succede che faccio il risultato quanto, e poi l'ho chiamato. E poi non si può più fare per legge, se viene chiamato sono obbligati a prenderti. Vabbè, comunque. Aspettiamo, dai, non è un problema, è tanto ormai. C'è un mio ghia di tempo. Ma tu, Gianni, riprendi tu, che io adesso devo. Allora, non spendere, posso scollegare il computer, stai nel tavolo con aggiornamenti. Oh, io ho formattato, Daniele, perché avevo praticamente una cartella Lucca, cioè la cartella che tu crei, no? Che ti dà tutto il sistema operativo, cioè ci metteva due ore per la cartella, e c'era questo file user, non so cos'è, non riuscivo a eliminarlo. Allora, io ho formattato, buonanotte, adesso va meglio, molto molto meglio. Sicuramente davanti anche il virus, bro. La mia in ceramica al contenente. ce l'ha Samuele, il ragazzo di Manuele, fa così lo stesso. C'ha questa boccetta che si mischia anche praticamente delle fragranze, tipo, cosa ti posso dire, la menta, la fragola, e te lo fa uscire al gusto di menta o di fragola, però c'ha sempre di cottina, mica. Esatto, esatto. No, io fragranze non ne ho mai comprato, io compravo il carico in farmacia e mi danno proprio la bottiglietta dove c'è la nicotina con la percentuale. Io per il momento ho iniziato con la percentuale a 6, a 6. Giovannotte, scusa, però adesso la ricarica che ho ricomprato, quindi la boccetta sempre farmacia, la compro qua a Carbonazio, con la farmacia che c'è, l'ho aumentata a 9, è un pochino più forte, però sempre nicotina, senza nessuna fragranza. Perché ci sono queste cose di più che possono far male, sono cose chimiche, boh. Ultimamente avevo stato un po' di problemi, non lo so. E tu la mattina, fai una cosa. cosa, ti prendi un caffè, no? Perché se lo prendi zuccherato, no? Invece di fumarti la sigaretta, bevi un bel bicchierotto di acqua, in modo tale che tu ti hai un caffè, sì. E l'acqua, ti aveva il sapone, cioè il sapone, oddio, il coso dolce, non ti viene quello di fumare. Io avevo iniziato un uscita da niente, tuo periodo, perché volevo smettere? Perché la mattina presto, con sto cazzo di sigaretta in bocca, cioè non era. C'è colazione e sigaretta, una, due, tre, una e l'altra, mi. Fatti un papà, la mattina, bevo il latte. Normale, non dolce, normale. Un bicchiere d'acqua. E stavo fino alle 11, 11 e mezza, e mi ha fatto una sigaretta. Invece prima no, appena la mangiavo il latte e sigaretta, una dietro l'altra. No, alla fine vedi cosa succede. Quando ti fai con le dolori, vedi si contenta la sua sigaretta. Purtroppo è così. Io ripeto, io adesso facendo così mi sto trovando bene. Era abbastanza scettico, la verità di quello che diceva, vedi che mi hai detto cavi così, ecco là. E invece funge. No, ma te lo piano, dai. Io ho sentito dire che queste sigarette le donne che fanno male. Lasciamo gli altri mali donne, comunque l'importante è non fumare più 40 sigarette al giorno come le fumavo io, 35, 40, poi per il resto non ci sono problemi, diciamo che è giusto per fare un'azione, mettere lì e tirare, ma non è come quando stai fumando una sigaretta sicuramente. Vabbè, ah, quello sono d'accordo con te, un mali di donne, un mali di rampi. Poi c'è anche questo, se ci vuole bene una persona, ci mette, prendiamo l'esempio di questa mia amica. Lei fumava, cazzo fumava, eh. E infatti dicevo, quando sei vicino a me, allontana di quella sigaretta a chi non mi dà fastidio. Allora, sono sincero, anche se l'ho fumato per 20 anni ho fumato, non per 2 giorni, 20 anni. Cazzo mi dà fastidio l'odore della sigaretta, più forte di me. E infatti, adesso lì è contento, non fumare più. Perché praticamente aveva la voce un po' raucedinosa, no? Allora faccio un controllo e aveva dei polipi, non polipi, no, polipi, delle corde vocali. Uno si è fatto eliminare e è un po' così ancora con la voce, c'è l'altro adesso, proprio sulla corda vocale, deve andare a operarsi in Germania. E questi polipi sono, cioè, per via della sigaretta comunque sia. Beh, per colpa della sigaretta, infatti gli hanno detto, se lei, signore, per la fumare, a lui dice grazie. Posso, aspetta, rispondo la cosa. Sì, già. Ti ho detto che sono aprire la porta. La sigaretta va male. Se fa male, lui è come se fa male. Oh, iaia, ma... piano piano io ci riusciremo a mollarla. L'unico che fa male, quello sì, perché lo stato se no poi ci ripete, non so, lo stato anche altri centri antifumo, che ho visto, se tu guardi su internet ci sono dei video lui. Ho trovato tu in questo centro, infatti che ci ha seguito le linee guida per mettere di fumare, perché quello è il centro antifumo, è solamente il vapore che ti danno. E poi piano piano si fa male la sigaretta. Vabbè, allora non dobbiamo aspettare che ci venga qualcosa, ci sa, ma poi allora, questo lo potrebbe dire Claudio, lo potrebbe dire tuo padre, ma anche Gianni, le sigarette c'erano una volta 20-30 anni fa, quando si era un tabacco, non questo che ci dia, questo che c'è adesso. Quello che c'è adesso è una merda, è mondetta, Daniele, non è tabacco, c'è tutto il testimone in mezzo, capito? Ma c'è più burro di tronchi in mezzo. Ma è quello, ma già tu sei più meglio di me, ma sei meglio di me. Come lo sa Claudio, che le sigarette di una volta, cioè il tabacco di una volta, di 20-30 anni fa, quello c'è che è un tabacco, fai anche di 40 anni fa, avanza. Sano, non quello che c'è adesso. Io guarda, ho cominciato a fumare le sigarette quando le prendevano scuse, immaginati. Queste qua sicuramente le mangeranno. Il tabacco lo passano in mezzo a chissà che cosa. Quando sono continuato a fumare, perché cambiamo, Marlboro Light, Marlboro Medium. come fumavi. Quando stavo fumando Diana Blu, c'era un saporaccio, proprio un saporaccio schifoso, era proprio... era infumabile, credo, non si poteva fumare. Poi cambiavo dalle camere, ho fumato anche le messe rosse, eccetera, tutte provate. Poi quando sono venuti questi dolori al petto, ho provato con quelle sigarette più leggere, ma non ce l'ho messo già. Era proprio... c'è la sigaretta che mi dava quel problema lì. E non potevo più fumare, cioè, perlomeno. Sono più dolori già, come mai? Come si spiega? Il dolore non ha provocato dal fumo, dai polmoni sicuramente. Perché sono stato anche 5 anni che ho smesso di riprendere. Fate in due già. Ho la mia, ti ha sentito, boh? Lo facevo anche a me la stessa cosa, attendere, vedi, mia moglie è stata costante, quando è rimasta incinta di Manuela, che ha saputo che era incinta e fumava e ha mollato di colpo la sigaretta, non ne ha avuto più sapere, quando vorrò rovinare la bambina. E niente, non mi ha più toccato, mai più. Ecco. Avanti! Ciao Fabrizio da questa parte, ciao a tutti, ciao Gianni, Luca, chi è? Poi faccio acceso adesso, dai, sto per salutare e fare gli auguri se non ci sentiamo, avanti Luca. Ciao Fabri, a te auguroni di famiglia, grazie per la visitina, avanti già. Auguroni anche a te, dai, mi ha fatto piacere che sei entrato. Con che apparecchio stai uscendo? Che ti sento effetto cattedrale. Con il microfono così tu è un Lafayette 40 canali. Ma sai come esci? Pulito, pulito, pulito. E ti piace la modulazione? A me sì, perché a me piace un po' l'eco. E non so gli altri, però a me piace molto. Ciao Claudio. Va bene, se ce la finisci. Ma io ho commutato di nuovo a questa perché non faccio il microfono così, non mi viene mai. Vabbè. Ma perché che mi lo faccia così tuo zio? Mio nipote si è aperto in piazza del comune, a Prodotto si è aperto il negozio, lo smoking di quelli di sigarette elettroniche. Sì, me l'ha detto mio fratello ieri. Me l'ha detto. Però non sapevo che era lui. No, non già funziona, mai avevo già funziona. Fatemi altri due secondi che ero andato a mia moglie a scaricare la spesa e giù in macchina e tutta roba da portare domani all'Alghero, se no mi si scongela tutto. Cato morto Luigi Montalcini, 103 anni, la mappa che tiene l'aria, e io sono lui che ancora ha tratteniti. Ciao Fabrizio, l'abbiamo ascoltato, dai. Aspetta, provo a cambiare il radio che mi viene meglio, però non so come esce l'altra, aspetta un attimino, scusa, riprendi Gianni, dai. Fabri, mica c'è un inglese che sta chiamando, chiamalo a vedere. Aspetta che gli punto, aspetta un attimino che la stia dicendo l'altra radio. Attention my friend, ascolti Italia from Slovenia. To Germany, you're Italy from Slovenia. Santiago 5, radio 3, cambio. Il mio microfono si chiama DM1000, apparato Galaxy Saturn Echo, cambio. Antenna Mantova 5, cambio. Molto bene, a volte arrivi con Santiago di 9, la radio di 5, molto bene dalla Germania. C'è l'amico Claudio che vuole parlare con te, avanti Claudio. Calipso, ti scuccio, la stazione è doppio room della città di Sassari, Sardinia. Ho sentito la vibrazione, sapeva che UFO passa. Mi sei fatto un dato, cos'è la vibrazione? Va bene, ciao Calipso, così ti chiami, Calipso? Poi ti chiama Calipso? Calipso. Io sono con 10 watti, 20 watti, va bene. Attento Calipso, ascolti la Facciamo le gare, cambio. No, ci ha parlato, Luca Vanni. Attention, my friend, attention, my friend. Insomma, sono lo sento. Tanti, ecco, attenzione Polonia, se ascolti la città di San...